Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Heartache. Dopo che la prima parte si era chiusa con Summer Teenage Girl da parte dei Canadiens, canzone ben nota a chi ascolta questa trasmissione con regolarità, abbiamo ripreso con canzoni altrettanto note, altrettanto regolari nelle loro presenze settimanali. Swing Your Heart Ache ha aperto la seconda parte attorno alle 19:30 come tradizione e poi si proseguirà fino alle 20, canzone degli Young Galaxy, per poi proseguire con Square Nine invece da parte dei Frightened Rabbit, e si prosegue con un pezzo che invece non è così noto a chi ascolta Eclectic. Se lo è, lo è per altri motivi, non perché ha ascoltato questa trasmissione. È una canzone degli Animal Collective, un vero e proprio collettivo di cui fanno parte più o meno 4 membri, ma poi è una formazione che varia di volta in volta. E quando esce una pubblicazione a nome Animal Collective, dietro potrebbe esserci uno qualunque di questi 4 membri, uno da solo, oppure in 2, oppure in 3, oppure in 4. Insomma, un qualcosa che da un certo punto di vista si avvicina all'esperienza nostrana dei Wu-Ming in tutt'altro territorio, in territorio di libri, non in territorio di dischi. Animal Collective, che mi permetto di recuperare in questo periodo dell'anno con scarse uscite discografiche, con un brano che era invece andato perso, trascurato da chi vi sta parlando. Si tratta di Safer. Thank you. much bigger problems. We got wolves on the plane, and they left their dam. There's a crack in the pipe shooting murky gray. They're running just as fast as the hares. So you should leave a place if you can't eat there. Oh man, and things have changed. Snow-filled lakes where they used to be. Woo! A field deranged. They're building beaches inside so it's sunny all May. I don't know, I think it's strange. Cause I know we met before, but I cannot place it. And I don't know if there's any real danger, but I'm alright if you're alright. I'm alright. I'm alright if you're alright. I'm alright if you're alright. I'm Riccio Tumarrano si svegliò. Il sole era alto. Intorno apparivano solo rocce. Rocce puntute come unghie, rocce come sculture in bilico su altre piattaforme rocciose, rocce lisce come arance. E tutte erano di un colore che andava dal nero al viola. Era lava pietrificata, figlia dell'Etna, il vulcano che Riccio vedeva perdersi altissimo nel sole. Dov'è l'Etna, lì finisce la Sicilia, avevano detto a Riccio. E lui adesso guardava il vulcano, si sentiva contento, si sentiva in capo al mondo. Aveva dormito sul duro, ma a 12 anni le ossa sono come elastici, corde d'elastico che non patiscono niente. Un pesce, si sentiva Riccio, un pesce guizzante di salute sopra e dentro la pelle. Questo era l'incipit di Le mille e una Italia, di Giovanni Arpino. When you play past the puzzle with human body parts, somebody might get hurt, but someone will get hurt. And I'll sing what you like if you shout it straight back at me. Things, but you left talking powder all over the bathroom. And yeah, it's great you can blur smoke rings, but you won't taste her lips if you do get to kiss her. And it's your party, but I'll die if I want to. I'll die if I want to. But the fresh air was better, and I couldn't tell if the singer's keyboard was a crutch or a synthesizer. But it sounded like he'd broken a limb each and every time he pushed the key down or in. There's red stains all over the place. Then after the cherry ain't with your parties, you throw knives. It's all the same if the fizzy drinks are nice. There's red stains all over. Will be accompanied by a sudden burst of acceleration. Yeah. Hopefully we'll hit 88 miles per hour before the needle gets much past 2,000. Why? What happens after it hits 2,000? The whole boiler explodes. Perfect. I would swallow bumblebees for you. And I've been swallowing bumblebees for you. I don't think you even noticed. I don't think you even know. For you, I don't think you even noticed. I don't think you even know. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 11, volume numero 3, indice, The Keith John Adams, Destroyer, Thao Nguyen and the Get Down Stay Down, My Robot Friend, The Pterodactyls assieme a Kimia Dawson, Marissa Nadler a rifare Bright Eyes, Canadians, Young Galaxy, Frightened Rabbit, Animal Collective, Los Campesinos, Kelly De Martino. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.